mattino diceva buongiorno, buongiorno, cazzo, ha detto che alza sempre, lui ha detto buongiorno. Sì, sì, ma era così, era. Anche quello lì era così. Tutto va via, tutto. Tutto. Anche allora il pranzo mi si va via poco gaggi. Se zia Maria la moglie di Gavino dice, ma Gavino già ti prepariamo, io prepara. Poi quello lì manda a fare il bacio, dammi un bacio. Così. Ma io mi hanno detto appunto uno che aveva un bello indiano, mi ha detto tu lo sai che se lavori da piccolina, se tu lavori sulla cornacchia, dice anche la cornacchia parla. Ma la cornacchia a checca ce l'aveva Salmia, uno che abitava vicino a casa, adesso è morto, poveraccio. Un amico là, che aveva la stessa mia età. E praticamente c'era questa cornacchia e gli stava sulle spalle, però non volava, lui camminava con questa cornacchia e gli stava sempre sulle spalle. Veniva, parlava con lui, questa cornacchia non si muoveva, poi gli dava le dirighette, gli dava le dirighette e si rimaneva. Dirighette, uccellini, gli dava le uova degli uccelli, tutte queste cose. Oh, mi ha detto questo che se è addestrato a farlo, non so, non sono del mestiere, infatti avevo chiesto a mio fratello, che lui è un po' più preparato in materia, ma ha detto ma cosa, è difficile che riesci a far parlare una cornacchia, il merlo è perché è così, è come il pappagallo. Addirittura mi ha detto mio fratello è molto più intelligente del pappagallo. Ma lo sai che cosa fanno? Gli tolgono qualche cosa dalle corde vocali, mi fa parlare, se no non parlerebbe mai. Li operano da piccoli, gli tolgono qualche cosa, così ho sentito dire. Non lo so, perché De Gavino l'aveva portato da piccolino. Non mi ricordo come si chiamava, poi ha un nome strano, che Pepito, Peppino, Peppicco. Cosa strana, cioè, come no, non lo so, lui gli hanno dato lì, l'ha comprato lì, infatti quando l'ha portato ha rischiato che glielo sequestrassero perché in aeroporto l'aveva nascosto in mezzo alla cosa, che ha rischiato anche di morire quel pappagallo. E invece uno che lavorava in Africa, praticamente, che abitava vicino a casa mia, la moglie, i figli, eccetera. E quando lavorava là c'aveva questa scimmia che si era affezionata a lui e stava sempre con lui là. Poi quando è venuto ritornato qua se la voleva portare e non gliel'hanno fatta imbarcare. Quando proprio era l'imbarco gliel'hanno fatta lasciare lì, non l'hanno fatta prendere. Dice che si è messa a gridare quando se n'è andato, gridando come cosa, dice che sono scese le lacrime. Quando ti affezioni un animale, non è che è così, già lo sai, noi ce li abbiamo gli animali, io sono stanco di tenere il cane, non ve la posso più, poi sono impegnato adesso, quindi ancora c'è mia figlia a casa, però poi mia figlia riprende a lavorare, che io non ci sono, un impegno per mia moglie non è che ne ha molta voglia di stare a portare in giro il cane, però cosa devo fare, purtroppo ce l'ho e me lo tengo. Per me è stata un po' in salita il periodo dopo che sono stato operato, vabbè, ma c'era Marco che lo portava, l'avrei voluto portare io però non ce la facevo, adesso lo sto portando anche io, dai, la mattina lo porto io, Marco se ne sta a letto, così lo si deve andare presto, perché prima poverino si alzava alle 6 di mattina per portare il cane e poi andava a scuola, se no come faceva, portava il cane alle 6 e poi si preparava tutto un po' e andava a scuola subito, ha detto che a volte arrivava anche in ritardo. Già, lo sai, è un impegno. È un grande impegno il cane, però purtroppo, ti ripeto, ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Quando ci sarà più, ci penso due volte prima di mettermi un cane in casa. Meno che non sono in campagna, allora è diverso. Lo so, ma chi non ce l'ha non lo sa, no. Io sono un affezionato, io guarda che ve lo do. Oggi c'era un pitbull, cazzo, stava abbaiando da sopra dal terrato, l'ha visto, Raul, non non so se lo conosci, un pitbull, c'è questo tipo che ha un pitbull e un cagnolino tipo pincher, dai. Ma quel pitbull è un bel malo, mi l'ha fatto cadere in terra una volta, c'ha un museruolo e ci ha cavato la museruola, ha preso questo cane, l'ha fatto, se l'ha portato via, le l'ha stracciato la mano, questa signora stava aprendo il portone e abitava nel mio palazzo. Stava aprendo le chiavi, il portone c'era il pincher in mano. Caspita, l'ha stracciata da mano, se l'ha portato lontano, l'ha fatto c***a pizzica. Cane bastardo, non lo posso vedere. Non lo posso vedere io quel cane. A me è... 2 anni fa, ma tutti e due cuccioli, sia Filippo che fa il cucciolino, comunque, però piccoli, insomma, piccoli. Filippo c'aveva 5 anni, mi sembra, 5 anni e mezzo, e quello forse 3 anni, 3-4 anni, 3 anni, ma su salita già ne cutto, perché è colpa sua. Io ce l'avevo a guinzaglio, lui ce l'aveva a guinzaglio. Cazzo, mi vedi? Cambia marciapiede, no? Nello stesso marciapiede è passato. Già da lontano, come te l'ha visto, Filippo si è pisolato dritto. Cattivo il mio, eh? Diventato, adesso è ancora peggio. Anche adesso è ancora peggio. Ma in quel periodo era un betterioso. E poi era molto più in forma. Adesso, poverino, non è più in forma come prima. Ancora sotto cura per le ossa eccetera, ma si è pigiolato dritto, cazzo, cambia marciapiede, no, mi è passato a fianco, si sono agganciati, ma se ne è avuto 4 mossi, a Filippo l'ha bucato forse l'orecchio, perché usciva sangue da dietro l'orecchio, a lui l'ha tutto aperto sotto il muso, perché il mio cane davanti i denti non ne ha, ma di fianco, come si è girato, perché lui c'ha l'istinto di girarsi, quindi l'ha preso proprio coi canini quelli lunghi di fianco, l'ha aperto dietro, capito? Infatti si è incazzato sia lui che io, ho detto cazzo, ma quando mai? Cioè mi vedi? Ma non pensa, cazzo non pensavo, cioè vai un pitbull, ma cosa pensi che lo mio sia meno del tuo? Cazzo mi vedi, cambia strada, cambia marciapiede, cazzo no, mi baci a fianco con 2 cani del genere. Infatti niente, è finita così, meno male, perché ce l'avevamo a guinzaglio, se erano sciolti si sarebbero ammazzati, eh. Uno dei due sarebbe morto, non so se il mio o il suo, però uno dei due sarebbe crepato, perché cazzo non ve l'aveva tirato in illo. Io sono furti, poi vado, si attaccano, anche te sono così. Questo qua, questo che chiamano Giacomino, un cane di seggio, però è di quelli più riusciti, di scivari. Ogni volta che vedeva a te, un giorno la padrona prendeva, senza avere criterio di vedere se c'erano altri cani, col telefonino in mano, lo prendeva, lo mollava, il cane partiva. Una volta già partito, però siccome l'ha fatto già un'altra volta, gli ho mollato il guinzaglio a testa. Ah, te ne brincate in alto, facendo uno scappo e si è messa a buccia la padrona. Ha detto, ma quando vai tu, cazzo, il cane devi volare così, vedi che ci sono altri cani a guinzaglio e tu lo muori così. La prossima volta ha detto che lo posso ammazzare. E l'ho tirato per il coso, per il... come si chiama? Per la pettorina. Perché l'ho preso per la manice della pettorina, non si muri a staccarmi, cioè era su 4 zampe, cazzo, gli si è buttato addosso di colpo, l'ha fatto cadere, cazzo, poi l'ha pigliata all'ugurto, cazzo, era nella green bay. Perché ci fanno male, cioè perché devi rischiare. Infatti no, a lui mi sembra, dottor Anfucci, perché poi siamo tutti e due dal veterinario. A lui mi sembra che 2 punti li ha messi dietro, sotto il collo, perché l'ha preso sotto il collo. A Filippo no, a Filippo l'ha solo medicato, comunque gliel'ha quasi bucato l'orecchio. I cattivi sono, i cani si difendono, non c'è niente da fare. No, quello del mio palazzo l'ha denunciato a uno che c'ha il pitbull lì dove c'è l'edicola. C'aveva una cagnetta lui, piccolina, e siccome c'ha quei guinzagli lunghi, no? Quelli che tiri, si allungano, io no, io ho la catena, perché prima lo tenevo anch'io con la pettorina, però la fascia corta, adesso ce l'ha la catena, perché il cane è più grande, quindi bisogna stare più attenti. L'ha denunciato, lui ce l'aveva guinzaglio, questo imbecille ci aveva un pitbull lo stesso, cucciolo, perché ha detto che era cucciolo, cazzo, ma sempre un pitbull. Come ho visto questa cagnetta, poverina, è andato da dietro, l'ha muscicato, l'ha tutto bucato rugulgas, ma come non l'ha ammazzata? Ma poi non guardano né se sono femmine, se sono maschi, né se sono piccoli, se sono grandi, tutti muscicheggia tutti i gatti. Il mio per dire, se sono femmine subito li scodintola e comincia a fiaggare, no. Ma il pitbull non guarda né se è femmina né se è maschio, ah, muscicheggia tutti i gatti. Ma non è così. Ma cosa non è così, cosa mi sai? L'ho visto io il pitbull moscicando, giocava con questa femminuccia sempre, è cresciuto, cazzo, stava giocando col padrone, il padrone mi ha detto, ma te ne immagini, Jerry Zepiugat, ha preso la moscicata. Comunque un cazzo di gatti, lascia stare, che non è come stai dicendo tu. E invece le capisci tu, forse cane ne ha avuto più di te. Baraggio, buongiorno. Ciao oggi, buongiorno. E comunque oggi il pitbull è un cane che non so se diventa, se nasce così o se la fanno diventare così, perché cioè, si parla sempre di questi cani, sono troppo aggressivi, no? Non rispettano niente, capito? Il mio ad esempio con i cani grandi si gira, maschi, ma se vede una cagna anche grande e femmina, non le fa niente, scodinzola, si viaga, ne va, invece con i maschi non si possono vedere. E pitbull, cazzo buco, cioè sei con un cagnolino e ti in Romagna, sei un parte lo stesso. È un cane troppo aggressivo, cioè sono cani che devono stare con la musarola. Sono cani che devono stare con la musarola, non è che lo stiamo dicendo perché ne sappiamo più degli altri, però a me mi è successo, ogni volta che ci sono aggressioni c'è sempre il pitbull di mezzo, mai cani normali come quello mio, come quello di Gianni. È chiaro che se vai a rompere le balle è mio, ti si gira e ti muscegheggia, ma quello ce l'ha proprio di istinto, cazzo, cioè non lo puoi, anche a guinzaglio è sempre un cane pericoloso, non ti puoi avvicinare a toccarlo, quindi ripeto, non so se sono i padroni che lo fanno diventare così o il cane che nasce così, non lo so. Allora una volta eravamo in piazza, Claudio, e c'eravamo io, un amico mio, c'era questa ragazzina che aveva un cagnolino piccolo, cazzo, mi subito il gas l'ha pigliato, cazzo, era ammazzato, gli ha dato un pugno in faccia, questo amico mio gliel'ha fatto mollare, cazzo, e gliel'ha fatto tutto il sangue, gliel'ha tutto finito, non so nemmeno se sia, l'hanno portato subito al veterinario, ma non so se si sia salvato. È sempre come lui. Ma cosa, c'hanno l'istinto, va? Sono rientrato comunque. Via, vabbè, adesso ti ripasso il cambio. Sì, ok. Hai ragione, cioè certo, se io ho un pitbull piccolino è chiaro che devo insegnare l'educazione, ma c'è gente che quei cani ce li ha proprio per far male agli altri cani, perché devono essere aggressivi. Cazzo, al mio genero c'è un cane cazzo che è alto 1,50 m, è un cane cattivissimo, ma le manca la parola, capito? L'importante è che non vai a rompere le balle, ma lui sta senza guinzaglio, lo conoscono tutti all'arte dolce qua. Tutti lo conoscono. Sta senza guinzaglio, ma le manca la parola. Sta a fianco a Mario, nulla, vede gli altri cani, ma non ci va e non ci vanno, perché si inabizzano cosa andano incontro, capito? Se ne accorgono. Anche pitbull ci sono lì, ci sono là, ci sono, come si chiama, Rottweiler, ci sono un sacco di cani, non si avvicinano mai al cane di Mario. Nulla. E lui non va a rompere scatto a nessuno. Se fosse stato un pitbull sarebbe stato un disastro. Questo è quello che mi dice mio cognato, ma mio genero che cazzo di cani ne sa, perché c'ha il patentino di addestratore. E come hai detto tu, dice, signor Cla, è come nasce il cane, perché se il cane nasce e tu le dai l'educazione, le insegni che deve fare quello, quello il cane fa. Se tu a un cane le insegni che deve mosciccare, che deve essere aggressivo, quello fa lui, non c'è niente da fare. Quindi bisogna evitare queste cose. E mi pare che gli italiani che vanno a Bittibull insegnano solo a mosciccare, a essere aggressivo, a essere, capito? Non va bene, avanti Roberto. Ma ci sono i cani che hanno l'indole. L'altro giorno, tu non so se l'hai visto, il cane, ciao Eugenio, comunque il cane di Marcello, quello a fianco a me, c'ha un maremmano spaventoso, enorme, ma un buon accione, un cane veramente bravo, nel senso, basta che non gli rompe le scatole nei suoi territori. E c'è una ragazza che abita vicino a noi, c'ha un pitbull, adesso questo pitbull c'ha 2 anni, c'era da quando è nato, nel senso appena nato gliel'hanno dato, lo porta tutti i giorni, 3 volte al giorno, lo accarezzi, ci giuchi, fai tutto quanto con tutti, si fa accarezzare da tutti, si coccolone proprio. L'altro giorno stava camminando col cane di Marcello, che hanno sempre giocato, abita sopra di Marcello questo cane, sempre giù che si è girato col cane di Marcello, hanno tutti e due col guinzaglio, stavano camminando a Giumai, se non fanno tempo a togliere, poi detto a Marcello, toglilo, se no si fanno male. Gli è, si è agganciato il pitbull al maremmano, maremmano poi forse all'inizio l'ha preso la sconfidata, gli sono rimasti tutti i piedi attaccati al pitbull. Dice che il cane erano sempre insieme giocando, questa ragazza lo tiene tranquillo perché gioca con tutti, viene in officina, si ferma. Il giorno ha girato di gabbo, non si sa per quale motivo, e si sono sbranati. Ma non mi ha detto, ma c'è, portalo via, se no qua si fanno male. Non riuscivano a staccare né uno né l'altro. E quando si girano anche al padrone? Proprio perché, come sta dicendo Gianni, è un cane che non ha un umore stabile, capito? È così, parte, esce fuori di gabbo in 5 minuti. Guarda che mia sorella d'Alghero, in campagna, aveva un pastore maremmano, ma bellissimo, grandissimo, enorme, Maria Ghisù, Ben Sebastien. Ma una cosa, guarda, sembrava un pastore dei Pirenei, di quanto era bello. Ed era un pastore maremmano, puro, bianco, guarda, bellissimo. Io stavo tagliando l'erba in campagna di mia sorella, ok? E lui era sempre in mezzo alle balle, dicevo, Balù si chiamava, Balù togliti. E mia sorella che era, stava preparando il pranzo, mi ha detto, dallo a bere, che forse c'ha 7. Cazzo, prendo la ciotola, le metto la ciotola e berre vicino a me. Ha bevuto, tranquillo, così, a posto, aiuto, togliti che va a tagliare l'erba, dai. Ah, coccolone anche questo cane, bravissimo. Cazzo, vado a prendere il rastrello, metto il decespugliatore, l'avevo già spento, prendo il rastrello per rastrellarmi l'erba del prato e toglierla. Come ho visto prendere il rastrello, mi è partito al braccio, c'ho ancora i segni, mi hanno messo 6 punti, 6 punti mi hanno messo al braccio, hai capito? 6 punti al braccio, il cane di mia sorella, che 5 minuti prima gli avevo dato da bere, capito? Quindi immaginati tu, cioè sono così i cani, vai oggi. Ho pensato quello che volevi picchiare. Vedi allora, ciao Robe, vedi allora che non sono solo i pitbull, non c'entra niente la razza di cani. Il cane è il cane, non c'è niente da fare. Come l'essere umano è l'essere umano, il giorno che trovi il più bravo con le palle girate ti risponde male, uno che magari è sempre stato tranquillo, eppure a noi ci distingue dall'animale ci distingue la ragione. Però molte volte anche noi ci alziamo con la gola storta, quindi vedi che è normale. È normale. Allora Eugenio, spiegami una cosa, perché se vai su internet ci sono le categorie dei cani pericolosi e quelli meno pericolosi. Tra quelli pericolosi c'è anche il tuo, c'è il dog argentino, l'American Pitbull. Io non mi informo delle cose, non è che le dico così a papera. C'è l'American Pitbull e il dog argentino è il primo cazzo tra i cani più pericolosi, l'American Pitbull. Tutte quelle razze lì sono tutti i cani più pericolosi che esistano. Allora, quelle razze lì sono pericolose per come li addestri, perché ti ripeto, se tu il cane lo fai crescere in mezzo alla gente, libero, come ce l'ho io, libero. Ok, che il cane si può sfogare, correre, saltare, fare, il mio ne fa di tutti i colori. Arriva a quell'ora, la sera, prende la rincorsa, salta sul divano e si addormenta. E tu puoi andare a rompere le scatole, il cane non si gira. Il cane ha bisogno di essere libero, capito? Il cane poi ha bisogno di una buona educazione il cane, che sia pitbull, che sia dogo argentino, che sia maremmano, quello che vuoi, ha bisogno di una buona educazione, tutto qua. E quando c'è da tirarle un calcio in testa, no in testa, quando c'è da tirarle un colpo per farle capire che sta sbagliando, c'è da tirarle un colpo e non le carezze, capito? Vanno educati i cani, e quando le dici ti stai lì che ci sono altri cani, lui non si deve muovere, e se non lo capisci lo picchi tra virgolette sempre, e fai capire che quando le dici deve stare lì, deve stare lì. A me ad esempio un giorno gli ho messo la carne, gli ho messo la carne, e non mi vergogno a dirlo, ma il mio è una sbella di cane, gli ho messo da mangiare della carne cotta, non cruda, cotta, mi si è girato, gli ho detto aspetta un attimo, sono andato, ho preso un manico ippico, gli ho spaccato sopra la schiena. Adesso quando le metto la carne, lui si siede, e fin quanto io non le dico mangia, lui non mangia, gli esce nella baffa, però non tocca niente. Bene. E secondo te questa qui è una maniera di educare i cani? Allora proprio non è un presunto. I cani si educano senza picchiare, bisogna addestrarli nel modo che vuoi, però senza picchiare. Ci sono dei metodi, se tu guardi i filmati degli addestratori, non li picchiano mai i cani, li fanno capire le cose senza picchiare. Sì, giustissimo. Cose ti fanno vedere quello che vogliono loro. Lascia, io sono confinante con uno d'allevamento Altanurra e lo vedo, quindi lascia che non mi segni niente. Chi è che mi chiama? Va? Ciao, buongiorno, buon primo maggio. Sì, Tony. Eia, ma quando mai si trucca un manico di rubicco in Atlantica? A te te l'avevi truccato in capo lo manico di rubicco. Ma infatti, aspetta, Tony, guarda che c'è un Galaxy in vendita, tu che lo stai cercando, su quelle cose di CP. E dove? CP, c'è 200 euro con le spese di spedizione, ottimo funzionamento e tutto. Ma non riesco a trovarlo, me l'hanno detto con un'altra persona, non riesco a farlo. Aspetta che vado a vedere dove te lo dico. Sì. Cazzo, ma sono Gianni Benobbi, eh? Ciao Sparto. Vabbè, Tony. Oggi qua ti riprendo anche io, il cazzo non è che ribecco io un manico di rubicco, il mio lo stesso è molto molto tosto da educare, bulldog inglese che c'ho io. Però cazzo non recupero un manico di rubicco, ne posso dare un colpettino di guinzaglio, un colpettino di ciabatta, qualche cosa, una manata a volte, perché a volte si morsica molto le zampe, quindi le do uno schiaffetto, ma cazzo non è mio un manico di rubicco, cazzo. Per carità, ragazzi, aiuto. Avanti, Robert, riprendi. Aspetta, riprendo io, poi chiudo, che già mi stanno girando le palle. L'ho detto in maniera ironica, no? L'ho detto in maniera molto ironica. Ha giocato una bella giusta, perché gli ho tirato in mano, gli ho spaccato il manico il picco. Era molto ironica. Vabbè, detto questo, dille a quello che sento molto basso di venire lui a spaccarmi il picco nella schiena. E anche a Timo farai chi vieni, sei tu. Ma cosa cazzo decidi in campo? Oh, fatela bravi, mi raccomando. Dai, fatela bravi. Fatela bravi. Ora ci vuole di tripacchi a lo manico bico in campo, Sergio. Non sai con che stai parlando. Non lo conosci, quindi fatela bravi. E tu Tonino non lo conosci a Eugenio, quindi fatela bravi. Non torniamo ai vecchi tempi, lasciamo stare le cose come stanno. Va bene, va bene. Comunque sì, ho capito in maniera ironica, ti ho capito perfettamente. Non è che puoi spaccare, cazzo, il pacco mai rubico, ammazzi il gatto. Ho capito. Sì, ma guarda che hai pienamente ragione, perché anche il mio genero che frequenta, ha sempre frequentato appunto queste cose di addestramento cani, non è che li educano così, vieni qui, fai qui, colpi in biglia nei gani per farle capire le cose, come li abbiamo presi noi da piccoli dai nostri genitori per insegnarci l'educazione. È più che normale, non ti sto dando torto, quindi è così. Io sicuramente mi sono spiegato male, ma non spaccherei mai un manico di picco sopra la schiena di un cane, assolutamente. Però ho giocato voce, a chi mai mi è stata l'urata. Scusa un altro qua. E oggi comunque a me mi è venuto spontaneo perché anch'io ho due cani. Ma io già quando tiro uno schiaffetto, quando mi rompo le palle o un calcetto, ti giuro, mi dispiace, perché cazzo di cane, poveracci, aiuto, se no non ci riesco io a farli male, ya. E giustamente come detto, li tronco, li ho troncato, il banco del picco sulla schiena, aiuto. Ma adesso che devi dire, ti sei spiegato, insomma, che tu non capisci quello che hai detto, giustamente. Io sono d'accordo con Luigi, se un cane mi attacca, che mi fa male, avessi per il pacco e la traiettina. No, ma scusatemi, no, io c'ho un cane che non ci vuole, ma prendilo dopo, ma fa culo, non ti voglio più, scusa. No, quella è un'altra cosa, cazzo, se un cane a me mi sta morsicando, mi attacca e mi morsica per farmi male, ma non il mio cane, un cane di fuori, il mio non lo farebbe mai, il tuo non lo farebbe mai, quello di Eugenio, sì, ha avuto un istinto, io le tolgo la ciotola, gli ho insegnato proprio il mio da piccolo a mettere la ciotola col mangiare e poi mentre lui sta mangiando a toglierla. Il primo periodo mi faceva, ha detto piano, stai attento, stai attento, non si è mai permesso, e ancora oggi che è grande, a volte devo fare mi nonno la ciotola, io ma e non andiamo a mangiare, fumo e venire a Vogo e mi bisighi perché la rivuole, ma non mi morsica, per lui è quasi un gioco, ma cazzo c'è un cane di un altro, a me mi morsica e cazzo allora mi devo difendere, poi forse mi devo difendere. Quello anche il mio adesso, il mio dentro, io lo tengo nel garage, neanche una cuccia, un garage con divano e tutte cose. Il mio quando lo metto a mangiare si siede, non entra nemmeno in garage, lo devo chiamare io, lei comangia la carne e all'epoca la bocca, lui apre la bocca e mi lascia fare quello che vuole. Però lo devi, glielo devi far capire che sei tu quello che gli dai da mangiare, gli devi far capire che sei tu il padrone, gli devi far capire che sei il capo branco praticamente, anche con i colpi, secondo che cane è, secondo che cane è. Perché se ci fai piccolino tra prende il sopravvento, come ti giri le spalle, boom, hai perso. Lo so, è così, io ce l'ho e ti dico che in certe circostanze bisognava stare attento. Quando poi gli ho insegnato le cose che dovevo insegnarle, allora adesso è più mansueto, ma prima non gliela potevi toccare a certe cose, questa è roba mia, se me li vuoi mangiare o mangiare mio, cioè allora già non così, capito? Adesso sembra quasi un gioco, gliela prendo, gliela tolgo, capito? È così, vabbè, comunque. Dai raga, che io mi allontano un attimo dalla radio, vi lascio un momento che appunto a proposito di cani devo dare a mangiare il cane. E siccome c'è il sacco nuovo delle crocchette lo devo aprire e sistemare, dai. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Vai Roberto. Ehi, dai, già ci sentiamo. Dai, il cane è importante anche l'educazione, però molte volte capitano dei cani istintivamente, magari in quel momento hanno visto una situazione o cosa del genere, magari reagiscono in modo sbagliato. E ripeto, quel pitbull con quel mare in mano sono nati insieme perché uno sopra l'altro, giocherelloni con tutti e due, te li abbracci, li sbatti in terra, ma noi è strano, non siamo il padrone, eppure in quel momento lì chissà cosa ha visto il suo cane, tutti e due legati, tutti e due a guinzaglio, si sono partiti, a giumano le trascina la padrona, infatti ha detto a Marcello portalo via perché la padrona non riesce a tenerlo, è troppo forte quel cane di forza, il tuo a te ti ubbidisce, ma quello lì se tira se la porta via. Ok, avanti per i saluti a Claudio. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao Claudio, buon pranzo, vai. Ciao Claudio, buon pranzo, buona giornata. Ciao Tonino, poi non ti ho salutato a te. Ciao Tonino a tutti, perché c'è tante quelle persone, io ho sentito solo due persone, ho sentito voi. Bene, comunque saluto il circolare, dai. No, io ho due cuccioli, ripeto, sono piccolini, avevo 2 mesi quando li ho presi, adesso ne vanno 5-6 mesi. Però giustamente mangiare glielo metto, glielo tolgo, lo divido perché sono girosi, uno e l'altro sono due sorelline, insomma uno rimane tutto a mangiare l'altro, è un casino, allora ogni tanto le sgrido, le sto, però non posso avvicinare una mano a togliere mangiare un po' di più che c'è l'altro, non mi ha mai rigato, la verità sono io che li metto a mangiare, sto educando abbastanza bene, adesso sono tranquillo, c'ho un mazzotto e un cane da caccia piccolino, taglia piccola. Che? E a ciao Alfa 21, ben sentito, ti rilancio gli altri e poi vi racconto un episodio di cane, così pensate. Vai Torino, si è ascoltato Alfa 21, a Riccardo. Ciao Riccardo, ben sentito, e una buona giornata anche a te, buon primo maggio. Avanti già. Ciao Riccardo, sto cercando sempre quel baracchino per te, non riesco più a trovarlo. Non l'hanno venduto, aspetta. Sto guardando. Ciao Riccardo. C'è anche Eugenio, vediamo Eugenio, l'ha ascoltata Riccardo? Boh, no, niente, io non lo sento, dille ciao, salutami, ma io non lo sento, non lo sento più, boh. Riccardo, l'ha ascoltata Eugenio? Sì, grazie altrettanto a te in famiglia. Ok, no, vi racconto un episodio di un cane, Tonino, Eugenio e tutti quanti, che questa è una cosa allucinante. Dici. Allora, mio cognato è il vigile del fuoco, poi di quegli specialisti, quelli che fanno gli interventi nei pozzi, safra, diciamo quello lì. Non so, da 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo, all'altra volta ci avevano chiamato per un intervento, che c'era questo pitbull con questa bambina, una bambina di 5 anni, e c'erano i carabinieri, hanno chiamato subito i carabinieri per intervenire e sono scesi loro, c'era questo pitbull, per arrivati dice loro sono rimasti scioccati dentro un cortiletto, questa bambina con questo pitbull ci giocava tutti i giorni, gli dava la mangia e tutto quanto, sono arrivati e hanno trovato questo pitbull con la bambina attaccata alla gola, cioè gli teneva con i denti la gola alla bambina, tutti terrorizzati, c'erano i carabinieri con la pistola pronti a ammazzare l'animale, però non dice se noi lo spariamo magari l'ammazza, perché era una bambina piccola, ci aveva avuto 4-5 anni. È stato mio cognato, siccome lui cani ne ha una marea, ne ha avuto, ne ha, non dico centinaia, ma decine e decine di cani, poi ci sa fare, e sono entrati con il rampino, quello che c'hanno loro, ce l'avete presente, il mezzo marinaio, quello grande, pronti a cercare di prenderlo, buttarci sull'animale e allontanarlo. Come il cane ha visto a mio cognato con questo rampino, questo gancio, ha mollato la bambina, se n'è andato in un angolo, tranquillo, è rimasto fermo. La bambina sembrava morta perché era tutta piena di sangue, poi si è salvata perché forse l'ha intaccata coi denti, però non ha stretto troppo, era tutta tagliata nella gola, però si è salvata, per dire chissà ma cosa questo pitbull ha girato, e questa ci giocava tutti i giorni con questo pitbull. Cioè, ma io direi questo, inconsciente i genitori di lasciare una bambina piccolina con un pitbull, cioè i miei sono cani piccolini, razza piccola o passotto, che sappiamo che sono cani di casa, sono giocherellone eccetera, ma un pitbull, un dover, ma no, non l'avrei mai lasciato una bambina piccola così con un cane, perché è successo anche a degli amici miei, stesso anche ero un GP, non so se vi ricordate Nuvoletta, Nuvola, sul monte, no, è Santo Francisco, comunque, e aveva questo Doberman, da piccolino, me un bel giorno sono salito a trovare anche il padre, e la madre stava con il camomilla, e gli ho detto, è il cane, e mio marito l'ha sparato, perché si è attaccato a Francesco, al fratello, al figlio, e ha detto, e non voleva più mollarlo, mi sono spaventato, e l'ha sparato, cioè il Doberman si è girato, cioè questi cani qua, Doberman, Pitbull, Maremmano, cioè, sono cani che sono pericolosi, date l'istinto in un casino, già stare attenti. Adesso sono delle indole, diciamo, sono animali più selvatici rispetto al pastore tedesco, che è un cane più equilibrato, eccetera. E tipo il Labrador, sono cani più equilibrati, però il cane bisogna stare sempre attento, anche se è un segugio o uno Yorkshire, devi stare sempre attento quando sono bambine piccoline. Beh, questo è colpa dei genitori che non lasciano una bambina piccola con un pitbull. Cioè, quello non è, no, io quello non l'attribuisco una colpa al cane, è una colpa dei genitori, della bambina. Il cane non c'entra niente. Magari, esatto, mia moglie dice, magari la bambina gli ha tirato la coda alle orecchie, gli ha fatto male in qualche modo senza volerlo. Cioè, ti ripeto, ci sono tante situazioni, anche noi esseri umani siamo uccidenti di capo, c'è gente che ammazza la madre, il padre, così perché non gli hanno dato i soldi, cioè, tra i giornali ne dicono di tutti i colori, no? Ti ripeto, purtroppo è così, cioè stiamo parlando sempre di un animale come tanti altri, perché io lo definisco un cane come tanti altri, un po' più muscoloso, ma è la sua indole, cioè, voglio dire, no? C'è il mio, che quando fa qualche cavolata, no? Tu lo vedi, perché come mi pare si siede, mi ha sono vicino e tira le zampe, prima uno e poi l'altro. Vuol dire che ha combinato qualcosa, allora mi devo mettere a cercare, a fare, a vedere cosa ha combinato. Ok, allora vorrei vedere Alberto, ciao a tutti, Roberto, Gianni, Eugenio, Tonino. Allora vorrei detto che io ho sempre asserito, le cristiane con i cristiani, gli animali con gli animali, mi sembra che sia la cosa migliore per non rischiare. Non c'è peggior animale dell'uomo, Sì, ma l'uomo con l'uomo è diverso di confrontarsi l'uomo con l'animale. Però non ti sembra che sia così? Io l'ho già detto che a noi ci distingue dall'animale solo la ragione. E per questo è anche molto più grave, perché noi ragioniamo. E noi ragioniamo, l'animale no. Per cui, appunto, vivere le persone con le persone e gli animali con gli animali, visto che gli animali non ragionano. Mi sembra che sia abbastanza evidente la situazione, no? Ma sei Gio Maria? Allora, sono Gio Maria, ciao Tony, Giulio sono. Ma Giulio, c'è una voce come vuole, cavolo. Lo so, tante persone mi confondono per Gio Maria. Sì, ma è così, il discorso è sempre quello, è inutile prendersi l'animale pure per avanzarsi perché l'animale stesso gli ha fatto male, allo stesso padrone o il bambino o che sia, è il discorso è sempre quello, se uno non vuole avere problemi, l'animale non lascia nel suo ambiente, che viva con gli animali, non con le persone. Allora io sono del parere che è sempre colpa nostra, scusate, ecco, io... Sapete il lavoro dove lavoro io? Ho assistito a una scena che sono venuti anche i carabinieri e poi hanno detto ma questo è il cane. Allora c'era un dog del Bordeaux, ok? Bello massiccio, d'estate, 40 gradi all'ombra, i padroni, questi due fratelli dal bar, bevendo e il cane chiuso in cofano, la macchina volta chiusa, soffrendo. Dopo qualche ora gli hanno aperto il cofano, l'hanno fatto scendere per fare i bisogni, poi lo stavano facendo risalire e il cane giustamente stava soffrendo dentro la macchina, si è buttato con le tappe e non ci voleva più risalire nel cofano della macchina, proprio le ha detto in tutte le maniere, sto soffrendo, non mi rimettete lì perché sto male, all'ultimo i padroni lo tiravano per il guinzaglio, niente, le tiravano calci, qua, là, ma tutto davanti ai nostri occhi, si è girato il cane perché ha detto adesso basta, mi avete rotto, e li ha moscati tutti e due, sono venuti i carabinieri, i vigili del fuoco, e lo volevano abbattere. E siamo stati noi, siamo messi in mezzo perché abbiamo visto tutta la scena e hanno multato i padroni alla fin fine. Bianco, per me un attimo. Era lo di Sasso, quindi appunto, ragion per cui per continuare a dire che gli animali con gli animali e le persone con le persone. Io una volta stavo lavorando a Sant'Orsola in una casa ed ero solo, ero in questa casa perché i padroni erano andati al lavoro. A un certo momento arriva il postino, è passato il postino per strada, c'era questo cane che è all'interno del cancello, però il cancello purtroppo era perso chiuso, è riuscito ad aprire il cancello, questo cane era un pastore tedesco questo, era morsicato il postino, l'ha fatto male, ma male veramente, non una fortuna no. A un certo momento qualcuno ha chiamato i vigili urbani, sono arrivati giù, io non mi ero accorto di niente perché ero su al piano superiore, stavo lavorando all'interno della casa e mi sono in un campanello in questa casa perché il cane era di questo proprietario dove io stavo lavorando, no? E mi ha fatto la finestra e da qua metti il cane solo dell'ammazzo, il vigile urbano, ho fatto io. Io non ho il cane quando. Ma come non è? Questo non è il suo. No, non è proprio il mio, io qua sto lavorando. E padroni non ci sono, cosa ne so io del cane? Per dire no, come stanno le cose. La ragione è sempre quella, le cristiane con i cristiani, gli animali con gli animali, è inutile andare a fare mafia con il cane, perché noi prendiamo il cane, noi tutti, mi ci metto anch'io, che tra l'altro non ne ho mai avuto. Per fare mafia, per essere chissà chi con cane, ma per andare a PC. No, non sono d'accordo. Ti dico una cosa, che il cane c'ha una memoria di ferro, Purtroppo sì, magari questo postino in precedenza gli aveva dato fastidio. Cosa ne sai? Bisogna avere tante cose. Il cane ha buona memoria e si ricorda delle persone che gli hanno fatto del male. Questo è d'accordo, sicuramente la memoria ce l'hanno, non c'è dubbio, anche loro hanno un cervello. Però se uno passa col motorino, il postino, arriva lì, c'è solo il campanello, ne esce un cane, solo perché ha sentito un campanello, e ti massacra, ma puoi scherzare, ma che razza di sistemi sono quelli? Poi che sia stato educato male o educato bene, questo è un altro discorso. Il discorso è sempre quello. Ma come sta uscendo? Dell'animale. Anche perché noi non lo sappiamo se l'animale è contento di vivere con me persona. E anche questo devo considerare. Non è solamente la prepotenza dell'uomo che deve prevalere sull'animale. Bisogna anche sentire e capire l'umore dell'animale che può vivere con te. Ecco qual è il discorso, Eugì. L'animale te lo dimostra se gli piace vivere con te. Te lo dimostra ti mandano i cioccolatini, ti mandano anche per dimostrare, che non è così. Diciamo che il cane si è soggetto alla tua volontà, al tuo volere, e ti sembra giusto che tu debbi comandare su un altro essere vivente, ma vuoi scherzare, ma dai! Gianni, non più giù. Giù, non è così. Guarda, c'è il mio. Noi siamo qua. Un cane abbastanza... Hai trovato, ma spostati verso 12. Ogni volta che viene il... Aspetta, tu dici che sta parlando di Eugenio. Lui è sul cancello. Se il postino mette la mano dentro il cancello, gli attacca. Eppure il mio è un cane tranquillissimo. Quando ci sono io è tranquillissimo. Eppure il postino non gli ha mai fatto sicuro e non gli ha mai fatto niente. Il postino mi ha detto che non ha mai avuto cani a chi non gli piace. Però non lo so, o lo sente che è una persona che non piace i cani e non lo so. Però ogni volta che viene il postino lui veloce mette la porta e se ne va. Perché il mio si punta e se apro il cancello sono sicuro che va a finire male. E poi non gli ha mai fatto niente. Appunto per quello, è quello che ti sto dicendo. Il cane perché si innervosisce o perché diventa cattivo? Perché magari è stato legato tutta la vita, è stato legato all'interno di un cortile, all'interno di chissà che cosa, a un certo momento impazzisce e chiaramente prima o poi l'animale si gira contro le persone, ma è normale. Appunto, se invece tu un cane lo lasci libero, tranquillo, lo vedrai, io sono convinto che nessuno l'abbia mai trattato male, sono convinto che il cane vive la sua vita senza formare a nessuno. Eppure le cose che sono quella cosa, per quanto buono possa essere un animale, c'è sempre almeno una possibilità, anche su mille, che possa cambiare idea e possa farti del male, perché è successo milioni di volte, non una sola volta, milioni di volte, continuerà a succedere. Scusate che entro di colpo, mi saluto, sono andato a fare il caricabatterie. Un saluto alle circolari, avete lasciato in parcheggio anche il ragazzino, non mi ricordo mai come si chiama, Riccardo. Ma avanti Riccardo, sì, ciao a tutti. Ok, ciao Tony, ci sentiamo allora, dai. Gianni, sei rientrato? Sì, dai, ciao Tony, ci sentiamo, dai. Buona carica quando la fai, è proprio popolo anch'io, dai. Che devo metterla a passare fuori. Dai, bene, ci inviti tutti a pranzo, bene, va così. Ciao, come si chiama Tonino, che non lo sento. Allora, uno qua che magari ha i cani, potrebbe essere Riccardino, da quanto ho capito al maneggio. Però io molte volte mi trovo in dissenso con Gianni, no? Però ha detto una cosa giusta adesso. Il cane te lo fa capire se sta bene o male con te, te lo fa capire, ma in tutte le maniere. Se sta male il cane, come si può dire, ti porta a mandarlo via. Quindi non è un discorso da fare quello che stai facendo tu, secondo me. Non è così, no, non è così, Eugì. Sì, può essere sia anche quell'animale affettuoso, come ce ne sono stati tanti, vedi quando la persona, il padrone muore, lui rimane accanto, sdraiato, in attesa, magari che tutti alzi, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Però deve partire sempre dal principio, ma quel cane che io sto prendendo, come ci sta bene, è contento, non è contento, è un cane aggressivo, oppure un animale docile, e tutte queste cose deve mettere in considerazione, per non sbagliare, premesso che l'animale non si deve maltrattare, non si deve investire con la macchina che per caso ti sta attraversando la strada, insomma non gli devi fare del male, in una maniera più assoluta, però per non sbagliare lascialo vivere per conto suo, nel mondo animali, e tu vivi nel mondo umano, che è diverso. Break? No, registrato. Poi ti dico una cosa, se no facciamo un ping pong. Riprendi Riccardì. Break. È registrato. Riprendi Riccardì. Ok, riprendo io. Come sono? E ti sento un bel poco. Come sono? Ti che sono bravo, non ho mai visto male a nessuno. Nel bastone che mi fa carattere buono. Perché evidentemente sono stati educati a stare in mezzo alla gente. Capito? Quindi sono abituati all'essere umano, sono tranquilli, quindi vivono in simbiosi. Vabbè, dai, poi ti racconto una cosa giù. Avanti il break. Ah, scusate, chi c'è in questo canile? Che bello di oggi, io non sento nessuno. No, adesso chi c'è in questo canile? Roberto c'è. C'è stato un break. Avanti il break. Vabbè, che sono entrato, ma non mi copiate. Oh, sono entrato. Giovanni Bracco. Ascoltate. Però anche Bracco, vediamo se ci ascoltiamo. Ah, ma Roberto, ma mi sta copiando o non sto uscendo? Sì che sta uscendo, come al solito, forte qua. Adesso chiediamo a Giulio, che è più lontano è Eugenio, se ti hanno ascoltato. Giulio, l'hai ascoltato? Ma se non sei invitato adesso, non è solo anche Bracco che ti ascoltiamo. L'inglese. Non ho capito nulla perché la radio di questo ultimo entrato non si capisce dove è sincero. Forse parla troppo a tutti. Allora, da me, dalle mie parti, Santiago 0,3 radio blu. Giulio, aspetta un attimino, Giovanni, Giulio ti ha ascoltato bene, forse ha parlato un po' troppo veloce, magari non sei riuscito a capire quello, però ti ascolta, c'è anche Riccardino, rifacciamo riprendere a Giovanni, parliamo più lentamente così magari lui riesce a ascoltare meglio, avanti Giovanni. No capo, adesso prima di tutto ho chiesto chi c'era in questo canile, perché stavate parlando di cani, no? Riccardino, ma mi stai copiando? Sì, già ti sto copiando, di 4. Vabbè, allora va bene. Robe, poco fa, siccome eri morto in parcheggio, avevo pensato che non c'eri più. No, ma rimango in ascolto perché sto lavorando. E quindi. Cosa momento. Vediamo, dai, vedi tu. Ok, va bene, dai. Avanti Giulio. Non capisco perché è entrato. Se voleva rimanere nel parcheggio, non so che è venuto a interrompere. Capito com'è la situazione, Eugenio? Avanti Gianni comunque, dai, facciamo girare. No, se lo sto in ascolto, sto cercando una cosa su internet, scusate. Poi a me, io la penso diversamente, Giulio, ti dico la verità. Io sono amante degli animali, non ho solo i cani, lo sai benissimo, c'è un allevamento anche di canarini, mi piacciono gli animali, poi io non vedo perché dovrebbero stare male con le persone. Se li tratti bene, gli animali non stanno male. Devi avere solo un feeling con l'animale, poi tutto lì. Io la penso così, poi uno può amare gli animali o non amare. Ascolta, forse tu non hai capito, non mi sono spiegato bene io. Gli animali io probabilmente li amo anche più di te, solo che io non mi metto ad essere domiciliare come fai tu, come fa tanta gente, perché ripeto ancora una volta, l'animale non lo so se è d'accordo con me, anche se lo prendo da piccolino per vivere insieme a me, io questo non lo posso sapere, come non lo può sapere nessuno nel mondo più assoluto. Per cui io ripeto sempre che l'animale con l'animale e la persona con la persona, indipendentemente dal fatto che possa essere educato bene, che possa essere trattato bene, che possa essere... Una mazzata, fare. Perché l'animale non mi è distorto, infatti. Possibilità su mille di frutti del mare, questo bisogna tenere in considerazione. Poi se vuoi contenta te lo tenga, nessuno ti dice niente, ma io l'animale non ho mai trattato male e non lo tratterò mai male, perché anche una mosca, io anziché ammazzarla, cerco di saltarla, apro la finestra e la scaccio fuori, senza fargli del male. Ecco, forse mi sono tirato male prima. Sì, vabbè, è tutto modo di pensare, uno non la pensa come la modo suo, inizio che siamo qua a discutere tutta la mattina, cioè poi tu la pensi in un modo e in un altro, quindi io rispetto le tue idee, tu devi rispettare le mie e quelle degli altri che amano gli animali. Qualche volta ti dà più un cane di un essere umano, ricordati. Però giù non mi piace oggi di radio, me. Cosa stai utilizzando? La sento un po' gracchiante. Perché sta parlando veloce e sembra incazzato, a voce alta. Se parla come di solito esce bene. Forse l'altro più vicino al microfono, avanti, adesso mi sono allontanato dal microfono. Non sono incazzato, cosa sono incazzato? Ormai mi è incazzato qualche secondo, ma non c'è disegno, oggi, ma ci mancherebbe altro. Stiamo solamente puntualizzando le idee. Io ho le mie e mi tengo le mie, tu hai le tue e ti tieni le tue. Naturalmente questo non significa che non ne possiamo parlare, ci mancherebbe altro. Ecco cosa intendo. Avanti, Eugenio. Break. Lei ha registrato il break? No, ci mancherebbe altro. No, ho detto sembra, non ho detto che è incazzato, sembra incazzato. No, perché è una discussione che ci sta prendendo. Comunque io voglio bene agli animali, io ho due cani e li tratto, guarda, come addirittura uno gli ho dovuto comprare anche il divano per farlo stare comodo, quindi figurati quanto ci tengo. E vabbè, ognuno ha le proprie idee, comunque io la tua la rispetto ma non la condivido, nel senso che ognuno è libero di fare quello che vuole, giustamente. Avanti il blecco. Ah no, sono sempre Giovanni, no, intervengo solo per dire la questione dei cani. Io devo essere sincero, amo più i cani che gli uomini. E a me i danni mi hanno fatto gli uomini, i cani non me lo avrebbero mai fatto. Nessuno si offenda perché ho fatto la gente provocatore. Non si offenda l'amico di poco fa, per carità, Meglio un cane amico che un amico cane. Appunto. Cos'è che hai detto? Non ho capito niente. Ho detto che io amo più cani che gli uomini. Gli uomini a me hanno combinato di tutti i colori. Cosa ti sei? Io non lo sento. Cosa hai detto, Gianni? Anch'io lo sento, non lo sento, non lo so. Va bene, approfitto. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao. Ciao Eugenio, buona carica. Giulio ha detto che lui ama più i cani degli uomini, perché gli uomini ne hanno fatto tutti i colori, i cani non gli avrebbero mai fatto ciò che gli hanno fatto gli uomini. Evidentemente lui ha vissuto in un ambiente dove è stato sfortunato, cosa vuoi che ti dica, ad aver incontrato un certo tipo di persone. Però ci sono altre persone che sono ancora più sfortunate e vivendo coi cani. E ne abbiamo avuto le prove sempre, continuamente, anche in questi giorni scorsi, un paio di giorni fa, che ha ammazzato una bambina, ha ammazzato il cane. Per cui, vedi tu adesso il Wautam. Se ci sono tipi di cani, stavamo discutendo di quello con Eugenio, anche se non lo ammette, però ci sono i cani pericolosi, ci sono i pitbull, i dog argentini, i presa canario, sono tutti i cani pericolosi, quindi ci sono le statistiche, non è che lo sto dicendo io. Tutto quello che vuoi, già, tutto quello che vuoi. Una persona, se a te non ti piace, tu cosa fai? Non eviti, non gli rivolgi nemmeno la parola, e non ti succede niente. Invece stai passando davanti alla villa, o che so io, o una campagna, o davanti alla casa, ti trovi un cane, quello può essere impazzito, ti aggredisce e ti fa male, e già lo sai come succede, no? Il cane territoriale è normale, difende il suo territorio, non può sapere se tu sei un ladro, che cosa sei, se ti avvicina alla campagna si avventa, normale. Però è messo lì per fare la guardia al cane, è messo lì con uno scopo, capito? Se il padrone vuole che non morsichi, lo lega e non morsica nessuno, se lo lasci libero è perché è messo con uno scopo di non fare entrare a nessuno. Sì, ritorniamo a quel discorso allora. Allora, forse non riesco a spiegarmi bene, oppure non mi vuoi... Ma dov'è il cane? Il cane lo stai condannando, ma te ne rendi conto? È come noi in questo periodo, con il coronavirus, stiamo mangiando perché siamo uomini, vabbè. Sistematicamente o per la spesa o per qualsiasi necessità assoluta. E tu però pretendi che il cane possa rimanere all'interno di una cuccia o che so io o chiuso che non possa uscire oppure negato, ma perché sai? Ma ti rendi conto? E questo significa che secondo te questo significa voler bene l'animale? Io dico di no, perché tu l'animale lo stai trattando male in quel modo lì. Ecco perché dico gli animali con gli animali e le persone con le persone. Io sono contrario infatti a legarli, comunque io prendo degli amici che i cani ce li hanno legati a catena e c'hanno un ferro che va da un albero all'altro, possiamo fare anche 10 metri tranquillamente camminando e facendo, quindi non è che siamo legati in quel punto, possono camminare, possono fare tutto, però sono legati vicino alla casa in modo che se qualcuno si avvicina alla casa ti avvisa sempre quando suona il campanello, lui ci va incontro, li prende lui e quando sono fuori non fanno niente. Se sei da solo ti si avventano addosso, e quello è il problema. Però i cani sono animali, tu devi sapere come sono, devi stare attenti tu, non è che devo stare attenti loro a te. I cani sono lì per fare la guardia. Il mio per dire, c'è un carattere, io lo conosco, il mio cane io lo conosco e conosco il carattere e ci sto lontano da certe persone perché lui le persone strane dice avventa, c'è poco da fare, se si avvicina un tossico, lui lo riconosce subito, uno zingaro, una cosa, non fa avvicinarsi, se fa una carezza lo risalta addosso. E io sto attento a non farglielo fare, sto lontano da persone strane e non gli faccio fare quello che vorrebbe fare lui con certe persone. Vabbè. Tu lo puoi negare, lo puoi lasciare 50 metri anche di catena o di cosa, come vuoi, per farlo muovere lì davanti alla tua casa o davanti al tuo cancello, quello che vuoi. Per me si tratta sempre di condannare un animale. Non lo so, anche i cancellati escono nel cortile, pure nel carcere, sicché non è il discorso è questo, noi ce la possiamo fare fino all'anno 21 parlando, intanto non ci intenderemo mai, assolutamente. Vabbè, tu la pensi così, la penso diversamente. Per cui vabbè. Giulio, no, per farti un appunto, però stai gracchiando tu, non so se stai parlando troppo vicino al microfono, hai fatto qualcosa perché stai gracchiando la modulazione. No, ma dici la tua, cara, invece di pensare al microfono, dici la tua nei confronti degli animali. Allora io di cani ne avrò avuto una diecina, per non dire niente, però io dico il cane in appartamento, io sono contrario. Ci sono gli anziani, purtroppo se li devono tenere per fargli compagnia, tanto di cappello, però io il cane a me mi piace da morire, ne ho avuto tanti, però deve avere una campagna, un territorio dove che lui possa stare tranquillo e libero. In casa io, la sera come l'hanno chiesto mie figlie, io ho detto cane in casa io non ne voglio, anche se è piccolino, il cane deve essere all'aria aperta, io la vedo così. Ci abito tipo mio fratello che lui abita su, diciamo, una bella casa, col territorio aperto, c'era 4-5 di cani, ne avrà avuto una trentina perché molti li sono morti, mi riempirei di cani io, anche per fare compagnia, per sicurezza e tutto, però io dentro casa il cane non lo vedo, poi devi portarlo fuori a fare bisogni, quello, quell'altro, eccetera, diventa peggio di un cristiano. E io ti dico, li adoro i cani, io quando li vedo divento scemo, però in casa io non me lo metterei mai un cane. Allora, io ti rispondo a questo, io il cane non lo lascio solo in casa, lo faccio uscire anche 4 volte al giorno. Poi c'è il problema che lo porto al parco a giocare, gioca con gli altri cani, non starà chiuso in casa, non ti preoccupare, il mio ha i momenti di libertà, lo porto nel tratto, a volte se posso liberarlo c'è la chiesa dei Borboni, c'è quelle... praticamente il custode che mi conosce mi dice dai portalo dentro e mi fa entrare dentro, chiude il cancello, io lo mollo, lui corre, rilancio la pallina, gioca, fa, e non dipende anche come li tieni. No, secondo me te lo terrai benissimo, non dubito di quello, Gianni. Tu il cane lo terrai come, una, come un figlio, me lo immagino, però dico, il cane è d'indole, deve stare all'aria aperta, io lo vedo così, perché poi magari oggi non hai voglia di scendolo, fa piovendo, ecco, invece il cane lo lascia all'aria aperta. Poi ti ripeto, gli anziani, meglio delle persone per gli anziani il cane. Io conosco tante persone anziane sole, ma sole, che non hanno né figli né niente, e moriti, marito è morto, rimangono là e si prendono il cane e lo trattano meglio del figlio, solo con il cane nel letto, gli fanno da mangiare, una gli ha fatto anche la festa del compleanno, ogni anno gli fa, gli prende le paste al cane, due pasticcini piccolini e gli fa la torta piccolina, per dirti. Però è un altro discorso, secondo me il cane deve essere in un'area aperta e poi naturalmente ci sono quelli come te che ti piacciono, te lo porti a casa, lo tratti benissimo eccetera, però come cosa è sempre un animale. Vabbè, io il periodo che stavo male, che sono tornato dall'ospedale, non mi reggevo manco in piedi, adesso ho dovuto chiare il tono, ce ne andavo in piedi svenivo, quindi non potevo manco alzarmi dal letto, stavo sempre con il cane era sempre vicino a me, non si muoveva un millimetro, se andava a toccarlo ringhiava, perché voleva stare proprio vicino a me. Lui c'ha la sua copertina, prende, si coricca lì e niente, non si muove da lì, e sentiva il fatto che non stavo bene, capito? Ma non lo dubito Gianni, ci sono i cani, poi c'hanno, molte volte sono più affettuosi degli uomini, non molte volte, tantissime volte, lo so benissimo, ne avevo io uno di cane, gli mancava solo la parola, era una cosa spettacolare, un bastardino. Io cani prenderei solo bastardi, cani di razza, preferisco sempre il bastardino, che è il cane più sincero, più affettuoso, più robusto di tutto. Mario è brutto, non lo vuole nessuno, però io dovendo prendere un cane, vado in un canile oppure un cane di strada, come ho sempre fatto, li ho sempre trovati e me li prendo. Così. Non vado a cercare la bellezza del cane, che deve essere mio fratello di cane, tu non hai quanti ne ha avuto.